Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant' Notar Nicola, parte terza. Non è che ci fosse molto lavoro per me da cavallero. A volte c'era da fare qualcosa per il partito e allora si mollava tutto. Ricordo che la FIGC aveva lanciato una campagna per la raccolta fondi e si girava per tutte le case dei compagni a fare i rotmat. Si raccoglieva carta, rottami, ferro vecchio, si svuotavano le cantine e i ripostigli. Tutto poi sarebbe stato venduto e i soldi ricavati sarebbero serviti per il lavoro di propaganda. Nel periodo di punta di questa attività a volte sparivo dalla bottega per delle mezze giornate e quel che è peggio spariva con me anche il carrettino usato per il trasporto dei mobiletti, con disperazione di Natale, disperazione che svaniva subito appena sapeva a che cosa era servito il tricillo. Ci si trovava in sezione coi compagni, dopo si partiva per il giro con gli indirizzi segnati su un taccuino, si lavorava come matti, tra polvere e ragnatele, a caricare roba dopo aver fatto la cernita e a scaricare nel magazzino del banfo. Aspettavamo di averne un bel mucchio per venderla a un compagno che aveva il traffico di stracci e ferro vecchio. La federazione attendeva con ansia il risultato del nostro lavoro. Tra l'altro c'era anche in corso una delle tante gare di emulazione. Fu una delusione. Un giorno il magazzino era quasi pieno, arrivammo in sezione e non c'era più nulla. Ma è venuto un compagno, mi ha detto che era un vostro incaricato, ci disse Marusca, la compagna impiegata in sezione. Ci rimasi male, mi venne il magone. Non per la roba, per la fatica compiuta, ma per essere stati delusi da un compagno. Quante ne sarebbero venute in seguito di delusioni? Come quella volta che un paio di teppistelli rubarono tutti i tubi di piombo dell'acqua e degli scarichi al banfo, e poi successero scene comiche. Eppure non si poteva discriminare in partenza. Quanti giovani della FIGC avevano situazioni familiari e ambientali tremende? Il padre in galera, la madre ubriaca, la sorella puttana, o addirittura senza parenti, soli come cani randagi, erano già emarginati, discriminati dalla società borghese. Il partito degli operai, dei rivoluzionari, di quella classe che lottava per emancipare non solo se stessa, ma tutta l'umanità, non poteva, non doveva comportarsi come i borghesi. Non sarebbe stato giusto, nonostante i rischi che in tal modo si correvano. Ma se non si corrono rischi, non si fanno le rivoluzioni. E le rivoluzioni non si fanno coi teppisti, in quanto tali, ma neppure coi borghesi ben educati. Il problema è un altro, è quello di non abbandonare a se stessi, di non lasciare infognare neppure gli sbandati, era tentare in ogni modo di salvarli, risocializzandoli. Fu in quel tempo che venni promosso a far parte del comitato direttivo della sezione giovanile. Ci fu una grande riunione di attivisti e io ero con gli altri, seduto in mezzo ai compagni ai quali ero più legato. In fondo alla sala c'erano i dirigenti della sezione comunista. Presiedeva Filiberto Rossi, della federazione. Alla fine della riunione mi sentii chiamare al tavolo della presidenza. Poi mi venne data una medaglia per essere stato il miglior diffusore della stampa in quel periodo. Non era difficile in quel tempo al partito dare ai giovani quella sensazione di essere utili, che diventava un formidabile incentivo a lavorare, a battersi, a donarsi completamente al movimento. Per quanto riguarda il battersi, mi ero già fatto le ossa anche prima. Parecchie volte era già capitato di doversi scontrare con dei gruppetti di fascisti che cercavano di rompere i coglioni in barriera, con manifesti appiccicati di notte, perché di giorno non osavano assolutamente. Altre volte con i giovani dell'Azione Cattolica, ma in generale con questi tutto finiva a parole, erano un po' troppo arrendevoli. C'erano anche i crumiri. La lotta contro i crumiri è sempre stata dura e di fondamentale importanza. Volente o nolente, il crumiro è un traditore, un nemico, anche se non lo sa, e bisogna farglielo sapere con le buone o con le cattive. Lo sciopero è un'arma formidabile nelle mani della classe operaia, ma per essere un'arma efficace deve riuscire bene. Ogni cura era dedicata appunto alla preparazione e all'esecuzione dello sciopero, quando veniva proclamato. In quei momenti venivano mobilitati gli operai per il lavoro di preparazione interna, noi per la propaganda esterna e per le azioni di sabotaggio spicciolo. Mi rammento che Piero era sempre tra i più attivi nell'uno e nell'altro aspetto della lotta. Ogni tanto lo beccavano. Passava una notte in guardina, ma il giorno dopo riappariva tra noi più entusiasta di prima, col suo giaccone di pelle e i pantaloni spiegazzati, i capelli lunghi e l'eterna sigaretta in bocca, sogghignando: «Ragazzi, diamoci da fare, che questi bastardi bisogna mandarli a farsi fottere». La prima volta che uscii in squadra per un lavoro notturno era poco che stavo a Torino. C'era anche lui. Eravamo una cinquantina, ci dividevamo in gruppetti, bisognava andare a fare le scritte sui muri, viva lo sciopero a Basso Valletta, e poi all'alba fare le colate di cemento negli scambi dei tram, così si sarebbe bloccato tutto. Il lavoro lo facevano quelli più vecchi, noi tenevamo il secchio della calce e facevamo il palo. Eravamo una decina. Il posto delle operazioni era il più pericoloso, tutta la zona adiacente alla caserma dei carabinieri, e naturalmente Piero si era preso l'incarico di guidare il nostro gruppo, proprio per questi motivi. Avevamo già fatto quasi tutto quando all'angolo di Corso Vercelli e Via Emilia ci arrivarono addosso i carabinieri. Il palo era un po' addormentato e se n'era accorto troppo tardi. Io con altri cinque stavamo scrivendo sui muri frasi piuttosto illegali, roba da vilipendio e istigazione. Piero e Claudio, un giovane che lavorava da Natale, anche lui, ci facevano da copertura e un po' di metri. I due pali erano più distanti, a una cinquantina di passi. Quando Piero vide i caramba, non era più possibile sparire, ci disse solamente: «Via, filate con tutta la roba». E con Claudio impegnò l'avversario per darci tempo di andarcene. Li misero dentro, ma presto, sia pure a malincuore, dovettero scarcerarli. Un anno dopo fu fatto il processo, assolti per insufficienza di prove. Quell'episodio mi legò di più a lui. Piero non era solamente quello delle riunioni, dei comizi, delle manifestazioni, era uno col quale si poteva marciare. E non uno di quelli che ti lasciavano in merda, pensando solo a se stessi. Questo non lo avrei dimenticato mai, anche perché avrei avuto altre prove. Io stesso cominciavo a imparare una quantità di cose su come si lotta e si fugge alla madama. A poco maturavano in me, stando a Torino, alla barriera di Milano, la rabbia, il desiderio di giustizia, la ribellione. Nasceva dentro di me lentamente il rivoluzionario, il comunista. Imparavo anche a vivere, pensare, parlare da torinese. Ci sono dei meridionali che vengono al nord e dopo decine di anni sono ancora chiusi nel loro gruppo, limitati nel dialetto, formano una tribù a sé stante. Per me non fu così. Mio zio era un torinese, di modi e di mentalità, era venuto a Torino fin da piccolo. Io poi avevo subito cominciato a integrarmi al Banfo, nelle boite. In via Cuneo si parlava più torinese che italiano, non c'erano fratture, eravamo tutti poveri, tutti operai. I miei amici erano per lo più torinesi o completamente torinesizzati, anche nel modo di vivere, anche altri che pure venivano da famiglie di immigrati. Adriano era uno di questi. Non conservava niente delle maniere venete, Era anzi un torinese tipico nel parlare, nei modi, nei ragionamenti. La volta che andammo a Belfiore, vicino a Mantova, capitai per caso nel pullman in cui si trovava lui, col gruppo della SNIA. Fu una giornata indimenticabile. Eravamo parecchie centinaia, tutti in divisa, tutti giovani. Andavamo a commemorare i martiri di Belfiore, eroi del Risorgimento. Volevamo rendere visibili con la nostra presenza quei legami ideali che ci univano a tutti i caduti per la libertà, anche se non erano caduti per il comunismo. Adriano fu all'altezza della situazione, ci tenne allegri, cantò le più belle canzoni intonando per primo i cori partigiani. La manifestazione riuscì perfettamente, ci incontrammo coi giovani della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia. Fu meraviglioso per me trovarmi con tanti compagni in mezzo a tanto entusiasmo. Un senso di forza, di fraternità ci univa tutti. Capii veramente, fisicamente, allora, cosa volevano dire le parole «Uniti siamo invincibili» e cosa era il sentimento che poteva legare tra loro uomini che non si erano mai visti. Vivevano lontani, gli uni dagli altri, che non avevano niente in comune, apparentemente, ma che erano resi fratelli da una comune appartenenza di classe, da un solo ideale. In quel periodo, anche se l'attività della FIGC mi prendeva quasi tutto il tempo libero, trovai il modo di innamorarmi di una ragazzina. Si chiamava Gianna e abitava in Piazza Crispi. Aveva la mia stessa età e frequentava il circolo ricreativo. Fu un amore bello e pulito, come può esserlo solo a quell'età, anche se contrastato. Gianna aveva una sorella maggiore che non vedeva di buon occhio la mia simpatia per la sorellina. Per qualche tempo soffrii molto. Tutte le notti, dopo la chiusura del banfo, rimanevo delle ore all'angolo della piazza a spiare una finestra, lassù, al terzo piano, fino a che tutte le luci si spegnevano e quando finalmente lei mi salutava, tornavo felice a casa. Ma presto questo amore finì. Una notte attesi invano, era un sabato sera, e lassù tutto era buio. Molto tardi si fermò un'auto poco lontano e due giovanotti del rione scaricarono Gianna e sua sorella. Erano tutti elegantissimi, io avevo ancora i vestiti inzuppati di colla per aver attaccato manifesti. Feci appena in tempo a nascondermi. Forse Gianna mi vide, era nervosa, si guardava intorno a disagio. Gli accompagnatori le baciarono e se ne andarono via, mentre loro scomparvero nel portone. Passai qualche giorno di crisi che l'ambiente mi aiutò a superare. Cominciavo a non essere più un ragazzo. Avevo 16 anni. Anzi, a volte pensavo di essere già un uomo. Ci si svezza presto quando la vita preme troppo con i suoi problemi. Quando la famiglia non è che una formula, è un sentimento. Quando si comincia a vivere in un ambiente operaio fortemente impegnato politicamente. Ma, almeno in alcuni casi, ero ancora un ragazzino. Ricordo i primi balli, le prime occhiate, i primi rossori e le prime poesie. Oggi l'estate è andata, via dei dolci colori. Non rimane che il violento giallore delle foglie moribonde. Con l'estate tu sei andata e solo sono rimasto a contare le foglie che cadono. Gianna se n'era andata, io non avevo la macchina. La prima poesia la scrissi meditando tristemente su questi fatti, ma non rimasi a lungo a contare le foglie. Mi trovai un'altra ragazzina, senza prenderla tanto sul serio stavolta, e mi dedicai con più zelo alle lotte. Le occasioni non mancavano. La mia vita si svolgeva tutta tra il lavoro e la sezione. A casa andavo solo per mangiare e dormire. Anche le ragazze me le trovavo tra le compagne. O perlomeno al CRAL. Anche a divertirci eravamo sempre tra noi. Era politico lo stesso modo di divertirci. Intanto, ma noi giovani non ce ne rendevamo ben conto, il partito continuava la sua involuzione. Tutto lo schieramento popolare era in regresso e questo sarebbe continuato almeno fino al 1968. I fascisti impercettibilmente alzavano la cresta. cominciavano a tentare le prime uscite dalle fogne, dai vicoletti della città vecchia, in cui si erano rintanati. Un giorno decisero di tenere un comizio in Borgo Vittoria, un rione popolare adiacente alla barriera di Milano. Era una provocazione, non potevamo lasciarla passare e andammo a discutere con loro e la discussione si allargò alla polizia che era venuta in forza a difendere la loro libertà di parola. Fu una lotta tipica da guerriglia cittadina. Si attaccava in un punto, si attirava lì la madama, poi ci scioglievamo per raggrupparci e attaccare in un altro punto. I fascisti non parlarono e furono cacciati di brutto. Ma anche noi prendemmo la nostra parte dai poliziotti. Arrestarono alcuni compagni che furono poi denunciati e processati. Venni arrestato anch'io. Fu in quell'occasione che ebbi un'altra prova della decisione di Piero e Danilo, del loro modo di agire. Piero l'avevo intravisto all'inizio della manifestazione con un altro gruppo. Poi ci eravamo separati. A un certo momento io e altri giovani ci trovammo isolati. Fummo bloccati dai Poulé in via Chiesa della Salute. Ci afferrarono dopo una colluttazione. Erano in maggioranza e ci portarono nelle retrovie, dove attendevano i cellulari per portarci in questura. Ci consegnarono ai loro colleghi che ci fecero salire sul camion e la truppa d'assalto tornò in linea. Noi eravamo sei o sette, i poliziotti altrettanto. Dopo qualche minuto alle spalle sbucarono Piero e Danilo con una ventina di compagni che da lontano avevano seguito la scena. Arrivarono in ordine sparso. Appena vicino al camion, saltarono su e con argomenti abbastanza energici riuscirono a portarci via, prima che i Poulé si fossero riavuti dallo stupore e si fossero rialzati da terra. Eravamo già spariti. Per me fu un'esperienza utilissima. Il proletariato, i giovani dimostrarono di volersi battere, ma il partito al vertice non era orientato verso un inasprimento della lotta. Il riflusso, cominciato nel 1948, continuava. Sarebbero venuti anni anche più neri. Tra esitazioni e ritirate parziali venne anche l'anno 1956, il 20° congresso, il rapporto Khrushchev, i fatti d'Ungheria. Fu una legnata per molti compagni e ne portammo i segni per parecchio tempo e le cicatrici non si sono ancora rimarginate. Forse fu un bene, ora la strada dei veri comunisti è più chiaramente visibile, tante confusioni sono state eliminate. Tuttavia, allora, per molti di noi, lo sputtanamento di Stalin fu come una coltellata alla schiena. Ci avevano insegnato ad amare Stalin, a vedere in lui il simbolo di tutte le lotte, di tutte le battaglie, di tutte le vittorie della classe operaia. In barriera c'erano ancora scritte sbiadite e altre fresche di vernice. Viva Stalin! Compagni erano morti, galera e botte, rivolte e scioperi per anni e anni, e Stalin era sempre stato con noi. Ora ce lo volevano togliere ed erano i compagni a farlo. Quella volta vidi il Barba, pallido di rabbia, Barba che aveva fatto la resistenza, comandando un gruppo di uomini coraggiosi e molti di questi erano caduti al suo fianco. Barba che aveva patito rischi e galera. Volevano togliere il ritratto di Stalin alla nona sezione. I compagni più esequienti alle direttive del partito, oggi viva Stalin, domani merda a Stalin, come diceva l'unità. Quella sera corse aria di botte in sezione, ma il quadro di Stalin rimase, e rimase la vecchia scritta sul portone di via Cuneo. Era un po' sbiadita, ma ogni sera, tornando a casa, mi faceva male. La volontà di battermi era sempre più forte, ma cominciava a crearsi un vuoto dentro di me. Se Stalin poteva essere infangato così, se Stalin poteva avere sbagliato tutto, anche quel partito al quale mi ero legato poteva sbagliare, poteva essere un giorno coperto di merda. Pensieri confusi che durarono poco. Poi, trovandomi coi compagni, Tutto sembrava chiarirsi momentaneamente, ma i pensieri cominciavano a scavare, scavare dentro, nel fondo. Certamente non ero molto preparato ideologicamente, non sapevo molto di marxismo. Leggevo i giornali, l'Unità, Vie Nuove, Avanguardia e altri, molti opuscoli, non certo i libroni dei classici del marxismo. Più che altro erano le discussioni, le riunioni, le conferenze, quelle che mi davano un orientamento, oltre alla pratica quotidiana. In quel momento cominciai a sentire le prime critiche, anche aspre, alla direzione del partito, alla tattica parlamentare, alla esasperata sottomissione alla politica sovietica. Tutto a livello di base, non ufficiale, in discussioni che avvenivano tra i compagni, in genere fuori dai locali della sezione. Tutto ciò mi turbava e mi faceva anche riflettere. C'era parecchia confusione, anche le critiche erano piuttosto approssimative, non convincenti. Chi aveva le idee più chiare erano Piero e il gruppetto dei suoi amici più stretti, quelli che andavano sempre a trovarlo in bottega. Nel 1956 Piero aveva iniziato la sua rottura col partito, anche se lentamente, per gradi, anche lui cercava una risposta che non riusciva a trovare, ma almeno nella critica era preciso e obiettivo. Aveva rinunciato a ogni carica dirigente, ma continuava a lavorare per il partito, come militante di base, sempre con lo stesso impegno, ogni giorno, ogni sera. 2 anni prima si era sposato, ma il matrimonio non aveva cambiato il suo modo di vita. Continuava ad abitare con i suoi alle case popolari. L'unico cambiamento era stato quello di non avere più il posto per far dormire qualche compagno sbandato o di passaggio. Anche a casa mia, dagli zii, ogni tanto c'era qualche ospite inatteso. Era un po' nostro costume non lasciare mai nessun compagno abbandonato a se stesso, finché era possibile. Allora agivo con l'impulsività propria della gioventù. Ora mi rendo conto della pazienza dei miei e dei fastidi che procuravo loro molte volte. Anche col lavoro, purtroppo, non riuscivo a trovare un buon posto, da guadagnare in modo decente, anche se proprio disoccupato non lo ero mai stato. Al massimo un paio di giorni e poi subito qualcosa la trovavo sempre. Per quasi un anno avevo lavorato in una bottega di lucidatore di mobili. Avevo imparato molto bene, poi il padrone aveva chiuso baracca, si era pensionato. Ormai era un vecchietto, intanto mia madre era riuscita a piantarla con il servizio e aveva messo su casa nel Biellese. Da parecchio tempo si dava da fare per riunirci nuovamente e per riavere accanto i figli più piccoli. Avremmo voluto poterci stabilire tutti insieme a Torino, ma per una serie di circostanze non fu possibile. Cominciò a spostarsi mia madre con l'intesa che non appena le cose fossero andate un po' bene ci avrebbe chiamati con lei. Quel periodo di attesa lo passai di nuovo nella boita di Natale. Avevo una buona mano come verniciatore, avrei potuto essere molto più utile e guadagnare discretamente. Così ci mettemmo d'accordo sul lavoro e sulla paga e sul fatto che sarebbe stato un impiego temporaneo. Allora in bottega c'era anche Piero. Aveva fatto un mucchio di domande nei vari stabilimenti, ma era stato sempre respinto. Credo che non gli dispiacesse, in fondo. Vedevo che cominciava a essere indifferente verso il partito e i sindacati. In fabbrica avrebbe dovuto impegnarsi più direttamente e probabilmente la rottura sarebbe stata più immediata e più clamorosa. Inoltre il tipo di lavoro era diverso, era magari più faticoso, si stava a volte 10-11 ore in bottega, in certe occasioni anche la festa si lavorava, ma era un'attività più libera, senza la disciplina autoritaria dei capi, un lavoro più indipendente, insomma, ed era quel che andava bene per Piero, anche se di grana se ne guadagnava poca. Fu proprio in quegli ultimi mesi del 1956 che ebbi modo di assistere a molte dispute ideologiche tra lui, Danilo e tanti altri compagni. C'erano molti ortodossi, altri stalinisti o rivoluzionari, come li chiamavo io. Anche Natale partecipava spesso a discussioni che si protraevano per ore, ma lui era sempre d'accordo col partito. Io non parlavo molto, preferivo stare a sentire. C'erano tanti e tanti argomenti, ma in genere si finiva sempre sul discorso inerente alla scelta della via italiana al socialismo, che per Piero e per altri sembrava segnare l'abbandono per lungo tempo della via rivoluzionaria. Danilo era uno dei più infuocati, venivano a noi quasi ogni giorno, vendeva libri per gli editori riuniti e bazzicava molto in Barriera, dove conosceva un sacco di gente. Esercitava un grande fascino su di me. Danilo, con il suo carattere fermo, autorevole, l'atteggiamento deciso, la fama del suo passato di combattente, e poi era un abile dialettico, molto preparato. Riusciva sempre a far tacere i compagni ortodossi con le sue argomentazioni. Quelli alla fine si sfogavano dicendogli che era un anarcoide, un estremista, ma tutto ciò non convinceva. Erano solo definizioni, non argomenti concreti. E poi a Danilo era facile ribattere sullo stesso terreno: opportunisti, piccolo borghesi, riformisti. Un giorno andammo a casa sua, in Borgo San Donato. Oltre alla vendita di libri, che rendeva poco, Danilo stava allora iniziando un'altra attività. Un suo amico era titolare di un'impresa edile e Danilo, che aveva frequentato l'istituto per geometri, saltuariamente andava da lui e cercava di impratichirsi del mestiere. Da quando era stato licenziato alle Ferriere per la sua attività politica, aveva dovuto arrangiarsi. Da quel suo amico poteva sistemarsi abbastanza bene, come assistente amministrativo o altro. Infatti, quando andai a Biella, seppi che aveva scelto definitivamente questa strada. Quel giorno andammo da lui. Dopo una sua improvvisata in bottega, era andato con l'auto della ditta a portare le paghe degli operai in cantiere, fuori Torino. Era sabato. Il capo gli lasciava la macchina fino a lunedì. Tornando in città passò da Piero. Eravamo solo io e lui in bottega. Andiamo su, venite a casa mia, ho qualcosa da mostrarvi. Abitava in via San Donato, una casa come via Cuneo, la vecchia Torino, dei poveri era uguale dappertutto. Entrammo in casa, due camere, il gabinetto sul balcone. Sua madre non c'era, era al lavoro. Danilo andò a pescare una cassetta dal guardaroba, l'aprì e vidi un luccicante Sten, così mi dissero che si chiamava quella specie di pistola mitragliatrice, la prima che vedevo da vicino. Si misero a discutere fra loro due. Ero un po' intimidito. Parlavano della necessità di prepararsi, di stare sempre vigili, di cominciare anche ad addestrare i giovani, come me, nell'uso delle armi e nella tattica dei combattimenti. Un giorno o l'altro il partito si sarebbe pure risvegliato, dicevano. Il discorso poi cadde sul passato. Danilo mi fece vedere il diploma di partigiano, la medaglia al valore che si era guadagnata e la foto di sua sorella, che era stata una partigiana combattente molto valorosa. La Sten era un acquisto recente di Danilo. Spiegò a Piero che aveva intenzione di trovarne altri se capitava l'occasione giusta. Lui girava, conosceva molti ex partigiani, non sarebbe stato difficile. Era una buona idea, ne convenimmo, solo che era pericoloso. Bisognava che fosse cauto e soprattutto che trovasse un buon nascondiglio. Il guaio più grosso era che poco o tanto bisognava pagarlo e sia Piero che Danilo non ne avevano da sprecare. La conclusione fu che Danilo si sarebbe limitato a recuperare quelle armi che stavano per essere distrutte e gettate via dai loro proprietari, preoccupati dei rischi che correvano a tenersele in casa. Lui era anche un ottimo armiere, le sapeva pulire, aggiustare, rimettere in ordine. La sera era un po' confuso da tutti quei discorsi, da ciò che avevo visto, ed ero anche un po' eccitato. Tra me pensavo, chissà se sarebbe venuto presto il momento di usare quelle armi, chissà se avrei avuto paura, se mi sarei comportato bene. Loro due, il giorno dopo, al mattino, se ne andarono in collina a provare il mitra. Compresi in modo inequivocabile che c'era anche questo aspetto nella vita di un comunista. Il partito continuava a dire che non era il momento. Anche i rivoluzionari lo ammettevano, ma dicevano che bisognava darsi da fare per affrettare i tempi. Tuttavia in me, come pure in quei compagni più estremisti, c'era una continua lotta tra sentimenti contraddittori. Da un lato la fedeltà al partito della classe operaia, dall'altro l'insoddisfazione per tanti errori compiuti o che stavano per essere compiuti. Forse questi opposti sentimenti furono quelli che a me e a tanti altri fecero rimandare ancora per qualche anno la rottura. Intanto, chi più chi meno, continuammo ugualmente a militare nel partito, anche con la segreta speranza di riuscire dall'interno a modificare l'orientamento negativo o almeno a porlo in discussione. Tentativo che con gli anni risultò destinato a fallire. Me ne sarei reso conto ancora meglio a Biella. Quella fu la situazione che lasciai a Torino. Ciò che avevo imparato, visto, sentito, era destinato a maturare in seguito. Libri ribelli. Libri ribelli.